Ciao ragazzi. Ben trovata, ciao da tutte noi. Ora l'abbiamo messa in riga perché facevano troppo casino e ora sono tutte timide che salutano con la manina. Però insomma siamo tante qui e ospitiamo volentieri in questo spazio insomma il tuo intervento da lettrice di giornali della mattina. E infatti era questo che volevo appunto comunicare rapidamente, molto rapidamente, l'interessante e curioso e divertente articolo sopra il Sole 24 Ore di oggi, ovviamente tutto dedicato, non tutto, ma in parte dedicato anche alle donne, all'8 marzo eccetera, con belle forti foto della Marcia Gagna in primo piano eccetera. Una piccola notiziola dal titolo ridicolo secondo me: per le donne l'occupazione cala meno. Che già insomma, a livello grammaticale lascia disorientate, sì. Eh sì, cala meno, ho detto che cos'è. Ovviamente il sottotitolo è cala la presenza nei settori più penalizzati dalla crisi, cioè edilizia ed industria. E poi dice anche che ovviamente, detto pure ciò, che l'occupazione femminile cala meno, comunque si rileva sempre la sperequazione, la differenza che rimane. La forbice con il salario maschile, che è sempre il 20%, cioè il maschio, tra virgolette, qualsiasi tipo di lavoro faccia, guadagna sempre il 20% in più della donna qualsiasi lavoro faccia. E questa è una notazione che conferma quello che abbiamo detto negli anni, nel corso degli anni. Sì. Accanto a questo articolo c'era una bellissima pubblicità e c'è scritto: venditi castello, cercati regina. E questa cosa mi pare che oggi è stata citata una regina da voi. Nella pubblicità c'è scritto: sappiamo che ciò che rende qualsiasi abitazione un castello è prima di tutto la padrona di casa. Ma cosa pubblicizza? Pubblicizza la vendita di un castello, un bellissimo castello, la Engel & Völkers, che sarebbe probabilmente una immobiliare di alto livello, che vende castelli. C'è una bellissima foto di un castello e per questo castello si cerca una regina, ma ovviamente è la regina perché è la padrona di casa. E queste sono le due note ironiche che si possono fare sopra il Sole 24 Ore, che è un giornale serio, però a quanto pare appunto non ha la capacità di scegliere delle pubblicità e di scrivere articoli e titoli minimamente intelligenti. La terza e ultima notizia che voglio darvi sempre brevemente, poi nei prossimi giorni probabilmente approfondiremo, è invece una questione locale, cioè dei castelli. Cioè il giudice tutelare, certo Goggi ha fatto un decreto in cui giudice tutelare ovviamente è quello che deve dare l'autorizzazione, in senso che è obbligato in caso di richiesta a una minore che chiede l'IVG. In questo caso il giudice Goggia ha negato l'autorizzazione a un IVG per una minore che la chiedeva. Cioè, e questa cosa è una cosa ovviamente che non si può fare, nel senso a livello legale il giudice tutelare è tenuto a rispettare la volontà della minore, anche se questa ha 17 anni e mezzo. E poi il giudice ha prodotto 4 pagine scritte fitte di presunte sue impressioni sulla ragazza stessa, che nel senso che la trova debole, la trova non convinta, la trova non capace di intendere, di intendere, e quindi la autorizza sostanzialmente ad avere un bambino. E questa è una cosa assolutamente ridicola, però anche molto pericolosa, e determina ovviamente, sottolinea il clima che c'è in questo periodo, in questa fase in cui i giudici adesso si prendono veramente delle libertà che un tempo non hanno, nel senso che le stesse operatrici del consultorio che ci hanno comunicato questo avvenimento e non avrebbero dovuto, oggettivamente sono pronte a in qualche modo a agire anche in maniera pubblica contro questa situazione, per cui un giudice tutelare, che dovrebbe tutelare appunto la minore e quindi autorizzarla a fare interruzione se lei lo chiede, in questo caso lo chiede, si arroga il diritto, la presunzione di dire no, non ti do l'autorizzazione. Ergo la ragazza probabilmente avrà un bambino. O cercherà un aborto clandestino. Certo, è allucinante e sì, magari ci piacerebbe approfondire un po' di più questa storia che ai noi speriamo insomma non a molte altre, ma probabilmente se questo è l'atteggiamento e comunque di un controllo del Tribunale di Frascati. Del Tribunale dei minori di Frascati. È un controllo Paolo sempre Gozzi. più capillare, e allora ne riparleremo anche per dare meglio. Parleremo anche con un'operatrice, quella che ha raccolto sostanzialmente la richiesta della minore, e vedremo di fare un minimo di quadro di quella che è la situazione, appunto, della richiesta di possibilità di ancora di avere l'interruzione di gravidanza tramite consultorio. Va bene ragazze. Paola, ti ringraziamo, un abbraccio e ciao. Grazie mille di aver partecipato anche tu. Ciao.